fossi io, viene lento di vagar, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Non che questo sia lo spunto, l'occasione dell'argomentazione che tratteremo questa mattina, però mi ha divertito vedere una singolare coincidenza oggi nella cronaca della Stampa, dove viene raccontato un episodio di ordinaria politica italiana, di ordinaria amministrazione italiana, che riguarda l'ESMO, una cittadina brianzola, in cui ultimamente sembra che la recrudescenza degli episodi criminosi sia veramente oltre ogni soglia della sopportazione. Rapinatori, malfattori, sgrassatori, ma soprattutto rapinatori a mano armata hanno fatto sì che alcuni amministratori locali, alcuni parlamentari di riferimento arrivassero alla conclusione che la maniera migliore per ovviare a questo problema gravissimo, facile a scriverne da fuori, meno facile viverci all'interno della loro popolazione, sia quello di mettere una taglia. Stanno raggranellando soldi in varie maniere, autotassandosi i parlamentari, vorranno raggiungere la cifra di 10.000 euro e metteranno poi gli annunci, come accadeva appunto nei film Cari alla nostra fanciullezza, sperando che la cittadinanza abbastanza morfa, che sopporta ma che non prende mai l'iniziativa per aiutare, collaborare, individuare, aiutare a reprimere, si muova di fronte alla cifra. Beh, la taglia con un volto di una persona ricercata dalla giustizia, una taglia che promette denaro per qualunque cittadino aiuti a mettere al gabbio i criminali, riporta infatti nel titolo al selvaggio West. L'ESMO, provincia Far West, taglia sui rapinatori, viene scritto su questo giornale. Beh, l'idea della taglia ha appassionato fortemente la mia e la fanciullezza della mia generazione. Non vediamo nulla di riprovevole nel mettere tagli, anzi, avevamo come eroi coloro che per mestiere facevano i cacciatori di criminali. Perché? Perché ci è capitato di vivere in una fase della nostra storia nazionale in cui l'immaginario si era improvvisamente spostato verso il selvaggio West. Ma non era il selvaggio West della prima fase della nostra fanciullezza che riportava a scenari lontani, a scenari che venivano appunto dall'America, che ci aveva lentamente preso per mano nel dopoguerra e portato verso il benessere economico, quindi con tutto il bagaglio di immaginario che aveva trasportato le nostre latitudini, c'era anche quello appunto della colonizzazione, dell'epopea del Far West. No, era un altro Far West, un Far West ricostruito in alcune colline nel centro Italia, andando a cercare degli scorci che dimostravano che in realtà i luoghi dell'immaginario non hanno una dimora concreta, una dimora reale. Ovunque, infatti, nei nostri giochi infantili ci fosse un albero, ci fosse uno sterpo, ci fosse un bastone, ci fosse un cespuglio, ci fosse qualcosa che poteva simulare comunque una vasta prateria, là era il selvaggio West. Dov'è il tuo mulo? Te lo sei lasciato scappare? Ah, sì, proprio di questo ero venuto a parlarvi. C'è rimasto male. Chi? Il mio mulo. Se l'è presa per quei quattro colpi che gli avete sparato tra le zampe. E adesso non sente ragioni. Ehi, ci stai prendendo in giro? No, io ho capito subito che volevate scherzare, ma lui invece si è offeso. E ora pretende le vostre scuse. Fate molto male a ridere. Al mio mulo non piace la gente che ride. Ha subito l'impressione che si rida di lui. Ma se mi promettete di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca ve la caverete. Ecco, in questa mattina di crudelissima primavera, almeno per me, vi faccio riempire il cuore di un po' di nostalgia. Ricordate questo suono, ricordate questo sparo di pistola, che era uno sparo molto particolare rispetto agli spari a cui eravamo abituati nelle pellicole appunto di origine americana, e rispetto agli spari che noi provocavamo con le nostre armi giocattolo munizionate con le mitiche super boom, che erano delle pallottoline di plastica, delle capsuline di plastica colorata che si mettevano dentro le pistolette che noi usavamo come giocattolo, facevano un rumore che assomigliava più a una pernacchia da incontinente piuttosto che a uno sparo di pistola. Gli spari di pistola dei film di Sergio Leone dell'inizio dell'epopea del western italiana erano molto particolari. Anzi, questa mattina sarei tentato di regalare un libro infame a chi riuscisse a riprodurmi vocalmente lo sparo di pistola dei film del selvaggio west ricostruito appunto alle nostre latitudini. 800240024 questa mattina per trattare l'argomento che mi preme ricordare, sviscerare, collegare ai vostri ricordi personali. Ho naturalmente Giuseppe Sansonna. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Di cosa stiamo parlando questa mattina? Qual è il periodo? Inquadriamolo e vediamo quali sono le genealogie, qual è l'humus in cui è nato il western all'italiana. Siamo nei primi anni 60, più precisamente nel 63, quando Leone vede il film di Kurosawa, La sfida del samurai, e intuisce che se ne può trarne un western. Lo copierà un po' pedissequamente in Moviola, perdendo poi la causa per plagio con Kurosawa, che da quel film guadagnerà $1,5 milioni perché lo sfrutterà in Giappone. Il film è per un pugno di dollari e c'è una visione completamente diversa del western rispetto al western di Ford, a quello di cui parlavi prima, a cui eravamo abituati, che è un western epico di eroi composti, perfettamente ben vestiti. E qui c'è un western di facce sudate, ghignanti, un po' da meridionali, se vuoi. Io nell'immaginario confuso dell'infanzia li vedevo il sud nei film di Leone. Vedevi i tuoi compaesani interpretare, poi c'erano dei punti in comune, diciamo la verità, si andava a cavallo, si andava sull'asino, c'erano città assolate, città povere, c'erano i cactus, c'è tutta la tua fanciullezza meridionale nei film di Sergio Leone. C'era un'efferatezza verghiana che lui riusciva a introdurre, e non c'era più l'orizzonte epico di costruzione di un paese che c'era in Ford. Qui c'era solo il denaro, appunto un pugno di dollari per cui scannarsi dall'inizio alla fine del film. Ecco, mi spiego come mai i film western classici, quelli che sono passati alla storia, avevano tutti delle camicie perfette, pulite, sembravano ancora inamidate, con questi colori sgargianti, ma anche la stessa camicia di Tex Willer, che è l'eroe più mediato rispetto a quel mondo, una camicia gialla ridicola, oggi potrebbe andare al Gay Pride con quella camicia, invece lui andava seriamente a sconfiggere nemici terribili come Mephisto. Ecco perché c'era questa sorta di irrealtà nel costume, nel vestito. Era un segno che scolpiva l'immaginario, un segno convenzionale, erano eroi perfettamente posti perché avevano un obiettivo sano, quello di una costruzione. Invece gli eroi sudati, ghignanti, con questi denti storti, con questi occhi bistrati, spiritati, erano appunto il Ramon per un pugno di dollari, che si contrappone al Clint Eastwood, da Joe, questo eroe solitario che arriva dal nulla. Il film appunto è per un pugno di dollari, e lui che arriva in questo paese e mette l'una contro l'altra queste due famiglie, sterminandole tutte, poi va via senza apparentemente, in realtà doveva guadagnare del denaro, però in realtà lo cede questo denaro, e questa è la cosa surreale, perché lo rende quasi una figura metafisica. Leone lo definirà l'Arcangelo Gabriele che arriva in questo paese, appunto. Infatti in America l'Arcangelo Sterminatore buñueliano. In America, quando ne fecero la versione televisiva, dovettero mettere una scena che spiegasse tante irrazionalità. Infatti lo fanno vedere all'inizio, lui che sta in galera, e lo mandano i poliziotti lo mandano in questo paese a sterminare tutti in cambio della libertà. Non riuscivano a giustificare queste irrazionalità del suo avvento in questo... Fermiamoci un attimo, perché abbiamo già Gigi al telefono. Gigi, buongiorno, che vuol portare il suo importante contributo. Buongiorno. No, io volevo soltanto dire una cosa a proposito del rumore degli spari nei film di Sergio Leone. Quel rumore non è nient'altro che diciamo la riproposizione del suono di una 357 Magnum, che ha il classico suono a frusta, cioè quando c'è il colpo senti pshu, pshu, con questa questo è prima, però prima come fa? Come prima? L'esplosione e poi il fischio. Certo, c'è l'esplosione tipo? Pshu, pshu, Sì, però il munizionamento è completamente differente. Sicuramente, però se voi ascoltate... Cioè, un colpo di 357 Magnum tiene 10 caricatori delle povere pistole di Clint Eastwood, perché erano pistolette che facevano... erano grosse pallottole, ma poco a poco il munizionamento è ancora abbastanza arcaico. Facevano tanto rumore e poca roba alla fine. Esatto, però secondo me diciamo che è il suono più, più affascinante dei revolver è quello della 357, proprio perché ha questa coda che va più data dalla potenza del munizionamento. Potenza e anche perché, siccome è un revolver, diciamo, ha un suono completamente differente rispetto ad una pistola. Una semiautomatica. Bene, lei esatto. ha portato il suo contributo. Sentiamo anche Antonio, che su questo dovrebbe dire qualcosa. Antonio. Buongiorno. È d'accordo con il suo collega? Sì, in parte sono d'accordo, però il rumore del fruscio che descriveva l'amico precedentemente sì. Deriva secondo me anche dalla deviazione che le pallottole avevano nel film colpendo il cappello, roccia, ad esempio, o la le roccia o la pietra che era vicino, e c'era questo proprio questo sibilo. La rifaccia un po' meglio, no? No, perché aspetti. La rifaccia meglio, perché Dux sembra un'invocazione nostalgica. La rifaccia meglio, se no dopo viene frainteso. Questo quando colpiva la roccia. Sì, però è vero, c'era un desiderio di riempire lo spazio anche acusticamente. Siccome gli spazi erano poveri in realtà, penso che Sansonda dovessero con la cinepresa cercare degli scopi, perché a Tolfa, dove le giravano queste cose qui, c'erano già le villette di geometri anni 50, orrende, quindi era difficile trovare degli spazi. Qui dovevano riempire, secondo me, acusticamente. Come dice giustamente Antonio, facevano questa sorta di sparco riverbero. Il suono diventa espressivo, infatti qui vengono usati per la prima volta suoni come il fischio, la frusta e anche lo stesso sparo, con questa sorta di effetto Doppler, questa sorta di echeggiare nello spazio, diventava molto connotato, espressivo. Il professor Chiappini, dal suo archivio sonoro, ci ha campionato una serie di spari di film western e in particolare ha selezionato quello che secondo lui è il più adatto per all'imitazione Bacco. Che potranno fare i nostri ascoltatori. Professor Chiappini, prego, proceda. Sembra quasi le frecce tricolori nella loro migliore rappresentazione. Riposentiamolo un attimo, così diamo modo agli ascoltatori poi di intervenire. Il riverbero è ampissimo. Devo dire che entrambi gli ascoltatori hanno colpito nel giusto. Sì. Quindi 800240024, assieme ai ricordi che potrebbe voi suggerire il film western all'italiana. Mi raccomando, soprattutto il pubblico maschile, ma se qualche signora potesse prodursi in questo, raggiungerei l'apoteosi del piacere questa mattina, di capire se riuscite oralmente, vocalmente, con i vostri singulti labiali e gutturali, a imitare quello che era lo sparo del film di Sergio Leone. Uno sparo che doveva riempire lo spazio, da colorare sonoramente la povertà degli scenari, che in realtà non erano quelli adeguati, ma era una ricostruzione onirica dell'epopea del Far West. Per aiutarvi a capire, vi voglio raccontare una bella parabola. C'era una volta un falegname. Pensate che possa fare fortuna un falegname? No. Beh, invece sì. Questo fece fortuna. Perché un fabbricante di casseforti, un furbacchione, pensò di mascherare una solida cassaforte facendola sembrare un qualsiasi mobile. E per questo il furbacchione chiama il nostro falegname. Ma un giorno il destino lo fa passare per il passo. Lo fa entrare in quella banca. E che ti vede? Uno dei suoi mobili che aveva fabbricato qualche tempo prima. E da quel giorno non riesce più a lavorare, perché nel suo cervelletto c'è una sola idea che gira, gira. Mettere le mani dentro quel mobile. Giuseppe Enzon, oddio, Sansonna, scusami. No, perché mi stava dicendo, adesso ti spiego perché mi sono sbagliato, certo. Fabrizio Intonti, anche lui ha un ricordo fanciullesco legato allo sparo di Sergio Leone. Aveva un compagno di classe che oggi è un stimato professionista, quindi non potrò citarlo, chiamato Erpetillo, perché faceva così, era il suo tipo di sparo di Sergio Leone. Ecco, di cosa abbiamo ascoltato in questo momento? Questo era per qualche dollaro in più, era il monologo di Volonté nei panni dell'indio che sale su questa sorta di pulpito dentro questa casa messicana e arringa i suoi banditi. Quindi un'altra cifra del cinema leoniano, questi lunghi monologhi, queste caratteristiche, perché Volonté allora era, lui l'aveva scoperto in A cavallo della tigre, dove faceva appunto il pugliese Leone, e l'aveva eretto a protagonista, lo aveva sottratto al teatro impegnato, gli aveva dato questo viso da messicano ferato che arringa i suoi, appunto, i suoi banditi. Senti, perché c'è questa ossessiva citazione del Messico? Era più facile come realizzarlo? Era affascinato da questa zona liminare, questo terreno di passaggio fra, diciamo, un meridione d'America e una terra promessa del selvaggio ovest? Sicuramente era più vicino all'Almeria di Spagna, dove si andava poi a girare, quindi c'erano dei motivi pratici, ma c'erano anche dei motivi legati appunto all'immaginario, a questa terra di frontiera, a questa terra che non prevede una crescita epica come i film di John Ford, come i film americani, ma restituisce bene quel clima verghiano efferato, feroce di cui parlavamo prima. Poi diciamocelo chiaro, abbigliare e costruire i messicani era molto più economico che pelle rossa. Gli mettevi due stracci addosso e un sombrero, erano fatti i messicani. Le facce poi dei nostri contadini somigliano, vai a fare pelle rossa, con le penne, con i tatuaggi, con i fisici scultori. I messicani erano un po' tutti come il sergente Garzia, grassi, sfatti, andavano benissimo. Sì, sì. Se pensiamo che Mario Brega, il romanissimo Mario Brega, è stato uno dei caratteristi principe di tutti i film di Leone. Sentiamo, comunque ci sono già altri volontari, altri virtuosi dello sparo di pistola, e vediamo, perché in questo momento Fabrizio Intonti sta attingendo la nostra cassaforte di libri scellerati. Avrete veramente dei meravigliosi doni in cambio della vostra perizia. Emiliano. Emiliano. Pronto, buongiorno, buongiorno. Dunque, lei è pronto a effettuare il suo sparo, ma attingendo nella memoria in cosa? In battaglie fantastiche fatte da ragazzo, in cosa? Allora, guardi, è dalla quinta elementare che mi esercito nello sparo. E a cosa, diciamo, materialmente cosa accompagnava questo sparo? Il pollice e l'indice a mo' di pistola o realmente delle armi giocattolo, tipo la mitica, che ne so, si usi la pistola di Bonanza o qualcosa che usavamo come supporto allo sparo vocale? Allora, inizialmente ho questa immagine come ricordo, più che il pollice e l'indice, l'avambraccio e la mano a simulare il Winchester. Ah no, aspetti, viene un gesto un po' ambiguo. Ah, ho capito, sì. Ho capito, sì. Sì, perfetto. Poi? Vabbè, e poi vabbè, la pistola giocattolo. Ma secondo me era anche, oltre a tutti gli appellativi che avete dato voi prima, le considerazioni fatte, era un suono che doveva trasmettere tristezza necessariamente. Beh, certo, dove arrivava non è che portava gioia alla fine. Esattamente. Vediamo cosa riesce a fare lei, poi svisceriamo e facciamo un'analisi strutturale del suo suono. Allora vado. Vado. Ma lei è un vero virtuoso. Come fa? Lo rifaccia un po', perché... Oddio, mi vergogno qua. Ma no, si vergogna, perché? Ma scherza. Perché? Ma perché vergogna? Vado, eh? Sì. Beh, lei riesce addirittura a ridare... Ho i brividi, guarda. Anche io, veramente, ho avuto un momento un brivido. Ridare l'ampiezza della prateria. Ma come fa a fare questa sorta di eco da Grand Canyon? Ma sarà l'auricolare, non lo so. Ah, perché lei è al ritorno di se stesso nell'auricolare, quindi modula meglio. Però c'è un aspetto tecnico che ho individuato nel tempo. Usa le mani. Il suono è strutturalmente diviso in due parti, il suono. La prima parte dove avviene? La prima parte avviene... Ah, quindi lei passa, diciamo, passa da una labiale a una fricata sorda, praticamente. C'è una sorta di mutazione. Esattamente. Cioè, non è un suono unico, ma, come dire, comunque questo è prodotto in due parti. E questo è il Winchester, quindi qui ci richiama che... Quando, Winchester, naturalmente, avendo una canna quando più lunga... Quando un uomo col fucile incontra un uomo con la pistola, l'uomo con la pistola è un uomo morto, che era la frase che diceva... Morto. Senta, lei dovrebbe adesso raggiungere veramente la perfezione. Lei mi rifà questo sparo, però rifà anche... riarmare il Winchester e rimettere il successivo colpo in canna, perché deve saper fare anche questo, il Winchester non è monocolpo. Certo. Ci provi? Vabbè, ci provo. Perfetto. perbacco. Era veramente rasenta alla perfezione lei, Emiliano. Grazie, rimanga naturalmente in ascolto, perché probabilmente alcuni dei libri scellerati e infami che noi daremo potrebbero toccarle. Chiudo con Luca soltanto. Luca, proprio in conclusione. Buongiorno. Luca, cosa sa fare lei? Ma io sapevo fare, so fare appunto, a livello hobbistico, mi passi il termine, insomma, il suono del Winchester, dell'ascoltatore che praticamente mi ha preceduto, il discorso del reverbero, però io ho una cosina in più. Sì. Cioè il proiettile che spesso si stampava, anche qui mi passi il termine, negli spigoli delle case, dove spesso appunto si nascondevano fuori dal saloon tra una casa e l'altra, si nascondevano tirando fuori giusto solo l'occhio per riuscire a vedere l'avversario dall'altra parte del... Lei allora riesce, fammi la sequenza. Arma del Winchester, colpo in canna, sparo e proiettile che si spiaccica. Allora... Le carichi, metta il colpo in canna. No, ricomincia da capo, l'ho interrotto. Scusi. Prego. Allora, metto il colpo in canna. Via. Questo tunio era praticamente, appunto, come diceva l'ascoltatore di 2 o 3 telefonate fa, il rimbalzo che è sulla roccia o sull'intonaco delle case, sui sassi delle case, perché magari l'intonaco non e cambia naturalmente a seconda del cambiare del materiale, del laterizio in cui si va a infrangere. Esatto, sull'intonaco fa rumore, sulla dura pietra un altro rumore, nel legno fa rumore più sordo che esatto, si infligge. E in più le aggiungo una cosa, rubo giusto qualche sì. secondo. Quando noi da piccolini usavamo appunto quelle pallottoline colorate che diceva lei, super boom, le chiamavamo le ballette qui nel modenese, facevamo un fischio, noi proprio un fischio tipo con le due dita, con la mano libera, accavallandolo al suono della punta. È per integrare, diciamo, la misera scarsezza di quello sparo. Grazie, Luca. Melog 2.0. Vedi, Bill Carson, qui si risponde presente. Non hai sentito? Rispondi presente. I tipi grossi come te mi piacciono, perché quando cascano fanno tanto rumore. Con Giuseppe Sansonna stiamo rievocando tra spari veri, reali, simulati e vocalmente rievocati quello che era l'epopea del selvaggio West rivisitata da Sergio Leone e dai suoi affini dagli anni 60 fino a un decennio che seguirono quegli anni. Giuseppe Sansonna in particolare, adesso cosa abbiamo sentito? Il terzo film della trilogia, no? Quello che chiude la trilogia del dollaro, che è Il buono, il brutto e il cattivo, e qui c'è un dialogo fra Mario Brega e Eli Wallach, che era questo attore strepitoso che portò l'elemento comico ma in maniera molto brillante nel western, qui doppiato da Carlo Romano, dall'inconfondibile Carlo Romano, e comincia a pronunciare questa frase sentenziosa che sarà una profezia: i tipi grossi come te mi piacciono perché quando cadono fanno più rumore, sarà la profezia che poi si avvererà nel corso del film. È una frase tipica da coatto. Il coatto dice: ma quello adesso vado gli meno, dice, ma è grosso, è meglio, fa il botto quando cade per terra. Coatto spaccone dice sempre questa frase. Fra il coatto e Shakespeare, Leone introduce appunto nel western questi dialoghi che denotano comunque ferocia, una ferocia che è lontanissima dall'epica fordiana, come abbiamo detto prima. Un'altra cosa riflettevo proprio nella pausa delle informazioni della borsa: in realtà la colonizzazione del nostro immaginario da parte del Giappone, che sembra per taluni iniziata con i film dei robot Mazinga Z e seguita attraverso i manga, poi attraverso le rivisitazioni, i film di karate e andando avanti ancora con le PlayStation, con tutta la tecnologia, sto capendo che è iniziata da molto prima. Se Sergio Leone aveva così pedissequamente copiato Kurosawa, vuol dire che l'immaginario del Giappone medievale, nel travaglio del dopoguerra, della bomba atomica, del recupero, dello slancio verso la modernità, verso un mondo che non si capiva, ancora non si concepiva, ma sarebbe stato poi conquistato, era già iniziato nel film western all'italiana. Noi guardavamo Sergio Leone, ma in realtà guardavamo Kurosawa. Sì, la ritualità è tipica dei film giapponesi, dei film di Kurosawa, viene mutuata da Leone, che poi ci aggiunge la sua forza espressiva che era legata al cinema italiano, al neorealismo. Quando prima stiamo parlando degli spari, della forza espressiva dei suoni degli spari, oltre al suono c'era anche l'impatto visivo della violenza, che nei film americani era una violenza asettica, pulita, si moriva in campo lungo, diceva Sergio Leone. Sì, sbaffettini di sangue sulla fronte, un rivolino di sangue dalla bocca, ma appena accennato, quando morivano mai, poi Pelle Rossa non ero mai colpiti, sparavano e cadevano per terra. Addirittura il codice AIS, la censura, prevedeva che ci fossero due campi distinti fra chi sparava e chi veniva colpito. Infatti Clint Eastwood, quando arrivò, rimase stupito che Sergio Leone invece facesse vedere tutto in simultanea e in primo piano, con gli effetti devastanti di questi proiettili che entravano, facevano un forolino, ma in uscita poi creavano schizzo di sangue, uscita di cervella, cose varie. Leone dà una funzione catartica a questa violenza quando ne parla. Dunque, intanto, per il giudizio insindacabile della Trimurti, composto appunto da Sansonna, Fabrizio Intonti e il professor Alessandro Chiappini, abbiamo assegnato il primo libro infame a Emiliano, il primo a riprodurre perfettamente il suono del Winchester con il suo alone sonoro suggestivo, dando spazio comunque e spessore anche a uno sparo. Beh, Emiliano vince Olio di cane di Ambrose Bierce, che non so cosa sia, ma penso sia un libro bellissimo. Poi Olio di cane può istigarlo alla manutenzione della propria arma individuale. Ivano, buongiorno. Buongiorno, prima di tutto vi ringrazio perché voi altri sostituite la radio pubblica. Vabbè. Non so se esserne fiero, comunque la ringrazio, comunque è un complimento. Senta, io in quel periodo si facevano i marocchini da tutte le parti d'Europa, noi. E allora io ero un marocchino che avevo imparato anche il tedesco. E sono andata a vedere la prima del film. Quindi lei era un emigrante dove? In Germania? Dove? In Germania. E dunque sono andata. Marocchino è per dire in termini lato un emigrante. Sì, ecco, va bene, ma volevo dire perché siccome c'è. Noi adesso si combatte l'immigrazione come se noi non ci fosse mai stati, sì. Io invece l'ho veduti da vicino. Ci fu un film Faccia da Turco dove appunto un regista si finse turco per vedere proprio cosa significa essere turchi in Germania, quindi sì. Ognuno la vede seconda la porzione di terra di emigrazione che ha più vicino. Lei la vede da marocchino e loro la vedono da turco. Beh, cosa ha fatto allora in Germania? Senta, io mi trovavo a vedere il film in tedesco a Amburgo in una sala cinematografica. Quando proiettarono questo film, tutti ci aspettava, noi e compresi i tedeschi, ci aspettava un bel titolo americano della Goldmeier o roba del genere. Quando videro che era fatto da Sergio Leone, perché presentarono gli attori tutti in ultimo, non presentarono chi l'aveva fatto inizialmente, perché sennò erano tutti prevenuti che non andavano a vedere neanche il film. Ah, perché era come un film fatto dai migrati, quindi è così. Sì. Quando proiettarono e videro che gli attori erano italiani o stranieri, ma era fatto dagli italiani, si alzarono in piedi a applaudire. Si ricorda come era titolato in tedesco? Aspetti. Se si ricorda. E sono 40 anni che non so. Va più. Bene. Comunque era doppiato in tedesco. No. Era lingua originale. Era doppiato in tedesco. Sì. Era doppiato in tedesco. Ma però era sottotitolato anche. Ah, per voi emigrati, diciamo. Sì, per gli immigrati. È assurdo, era un film che era fatto in lingua originale, vederlo in tedesco e sottotitolato per voi, però un'attenzione in fondo lo devo. La sorpresa è che si alzarono tutti in piedi e rimasero a bocca aperta, stupiti tutti. E batterono le mani, si ricorda, in quel cinema tedesco? Sì. Sansonna, devi fare una domanda al nostro... Sì, questo no, mi incuriosisce molto, è una bellissima telefonata perché richiama i primi western europei, furono fatti proprio dai tedeschi, ispirati ai libri di Karl May e il loro Salgari, ed erano legati a questa rivisitazione del western fatta alla tedesca, ma in maniera molto banale, infantile, quando Leone vide questi film. In realtà c'erano anche stato qualche spaghetti western italiano prima di Per un pugno di dollari, ma era tutta un'atmosfera molto infantile. Leone prese, caricò tutto su se stesso e dette vita a questi film che avevano un impatto di grande vitalità nel mondo. Su Life uscì la copertina di Life con Leone con gli spaghetti al posto della barba, cioè l'impatto di Per un pugno di dollari fu di fama mondiale, enorme. Ma questo mi fa riflettere come in Spagna il surrealismo passa attraverso il Messico, dalla Francia per ritornare in Spagna. Da noi questo spirito nazionale passa per l'immigrato italiano attraverso un film in lingua tedesca, sottotitolato in italiano, fatto da un regista italiano che a sua volta imita un giapponese che imita gli americani, che è un giro tortuosissimo che alla fine però fa sempre ritrovare quello che è il senso profondo, che forse è universale delle proprie radici. Però ci accomuna tutti, c'è un sincretismo di fondo, che però gli archetipi sono quelli, si fa sempre riferimento all'Iliade, a Omero, di questo parlava Leone quando parlava dei suoi. Adesso passiamo però alla parte, vedo, più interessante di contributo del nostro pubblico con Mario. Mario, eccoci qua. Buongiorno a tutti, salve. È pronto? Prontissimo. Allora, lei prima descriva cosa fa. Sì, da bimbi si giocava spesso con appunto finte pistole, finti fucili, che erano fatti di legno con mollette dei panni, chiappini, noi si chiamano. Sì, con le mollette dei panni, chiaro, un classico. E quali si collegava un elastico. Un elastico che si tirava sulle orecchie dei suoi. E poi ci colpivamo a vicenda tra gli amici. Sì, il lobo dell'orecchia era la parte più sensibile che si poteva colpire. Giusto. Provocare lesioni irreversibili. Quindi si sparava alle spalle, soprattutto. Era un'arma molto vigliacca, serviva per colpire alle spalle. È vero, è vero. E niente, quindi questa mattina mi riporta alla mente poi anche il suono che associavamo. Allora, vediamo velocemente, perché abbiamo lei e un altro ascoltatore, si cimenteranno in questo ultimo. Riprodurlo, era un simile a questo. Lo rifaccio ancora? Si perde lontano nel Grand Canyon, così l'ha immaginato. Invece era un elastichino che prendeva l'orecchio e sentiva un vaffa dell'amichetto colpito. Grazie Mario. Enrico, anche lei. Ecco, buongiorno Nicoletti. Veloce, che devo dare la linea al traffico, che è importantissimo. Sì, una cosa carinissima, un bel regalo che ho avuto, che io avevo una cucina con le porte tipo saloon. Ah, che fortuna. E io avevo 7 anni, spalancavo queste porte. Andava molto negli anni 70, diciamo, la cucina rustica. Sì, perché avevo 7 anni, 8 anni, sono del 62. Era una cosa bella, ho passato delle ore a farmi nella mia testa i film, le capriole, più insomma. Non ha messo mai le dita dentro, diciamo, la molla, perché ha delle porte. Il saloon andava molto, ma staccava le dita ai bambini, quello era il problema. Sì. No, però tornavo indietro e puntualmente mi picchiavano nella testa dal dietro. Ah, ecco, sì, avevano un effetto deleterio. Però un'altra cosa bellissima era un balcone. Questo balcone io praticamente vedevo il mare e c'avevo il fucile. E sparava contro il mare. Vada allo sparo, che devo dare la linea io. Sentiamolo. Prima, ma cos'è, fucile o pistola? È un fucile, un Winchester. Ah, sempre Winchester. Però lo faccia attenzione. Completo. Carichi, armi, tutto. Veramente si sente l'orizzonte del mare. L'eco è straordinario, è commovente. Commovente. Sì. Si sente perfetto. Lo sparo che si perde nel mare, la pallottola che rimbalza sul pelo dell'acqua, verso appunto un per sole che testa, tramonta. Per me lui è in testa. Grazie infinite. Melog 2.0. Sabato, non ti riconosco più, amico. Tu al mio posto di quella cassaforte, che ne avresti fatto? Avanti, sentiamo. Io me la sarei fregata. Eri fuori tempo. Prima di riprendere la nostra analisi del cinema western italiana con Giuseppe Sanzon qui accanto a me, devo ricordare la fantastica gara dello sparo orale che sta appassionando i nostri ascoltatori, che ha già proclamato un secondo vincitore. Il secondo vincitore è Enrico, che dal balcone spara contro il mare, che vince un inimitabile e rarissimo libro, La maledizione del frate nero, di Maria Giannetto, che lo avevo veramente serbato per i miei momenti migliori. In realtà me ne privo molto volentieri a favore di questo ascoltatore, che così meravigliosamente e poeticamente ha reso la pallottola che si perde, la pallottola del Winchester, la carabina 30-30, che si sperde lontano verso l'orizzonte marino, e forse incapperà in un gabbiano e forse lo stecchirà. Giuseppe Sanzon, invece cosa abbiamo sentito? Abbiamo ascoltato E amico, cioè Sabata hai chiuso. Qui cominciamo con gli epigoni, con queste parolini che negli anni 60 segue la scia di Sergio Leone. Il protagonista Sabata è l'Ivan Cliff, e qui c'è un aneddoto curioso legato ad Ivan Cliff, che fu scoperto da Sergio Leone. Lui era un caratterista di tanto cinema americano. Sergio Leone, per quel qualche dolore in più, voleva Lee Marvin, che però era già impegnato. Era in America, si ricorda di Ivan Cliff, che ha visto in qualche film, però scopre che fuori da tutti gli annuari era sparito da tutto Ivan Cliff. Lo resuma. Come poi ha fatto Tarantino, lui, lo stesso Clint Eastwood, apparteneva al mondo dei telefilm, a Roide, cioè lui riesce a cogliere caratteristiche, attori dei telefilm, e Ivan Cliff faceva il pittore per pochi dollari al giorno, cioè una sorta di mendicante con problemi gravissimi di alcolismo. Lui lo ingaggia e quasi non voleva rinunciare al suo lavoro di pittore. Ivan Cliff non ci credeva che sarebbe diventato un divo assoluto nelle nostre parti, fino a fare addirittura il film con Carpenter, Fuga da New York, insomma è diventato Ivan Cliff un'icona di questo western, ed era uno di quelli che non aveva bisogno di recitare, non aveva necessità di recitare, aveva un volto talmente espressivo, talmente forte, inquadrato alla Sergio Leone. Tarantino, quando usa il termine "give me a Sergio Leone" per intendere i primi piani stretti, sì, certo, che con Ivan Cliff e con lo stesso Clint Eastwood avevano una potenza espressiva notevole, appunto. Ecco, Ivan Cliff, vi ricordo, c'era una sorta di tecnicismo ulteriore rispetto alle classiche armi del cinema west. Ivan Cliff aveva un fucile smontabile che teneva dentro la sella, cui lentamente, in maniera proprio come se il mondo si potesse fermare per lui, apriva questa sella, tirava fuori le varie parti, montava questo, era una pistola con un allungamento di canne con un calcio, un'arma modernissima e anche fantastica, esisteva veramente probabilmente, poi prendeva la mira e sparava. Rituale come un samurai, c'era questa sorta di arcaismo e di iperboli, di appunto di macchine fantastiche reinventate. Era un western come dimensione completamente reinventata, quella di Leone, che però si impose per la forza del suo immaginario al mondo. Che sogniamo quell'arma in maniera fantastica, però mi ricordo che nessuno la riprodusse, nessuno ha l'altezza della capacità d'acquisto dei nostri genitori. Riccardo. Sì. Sì, pronto. Lei fa un passo avanti che volevo suggerire, in effetti, oltre lo sparo che si perde nel nulla, che ci piace, ma è ora di sentire lo sparo che colpisce con gemito di agonia del colpito, dello sparato e sua caduta probabilmente. Bravissimo. Certo, stiamo qui a pettinare le bambole. Beh, intanto è un piacere sentirvi, perché l'orario mi penalizza un po'. Sapesse a me quanto tempo penalizza. Niente, così, sono in auto viaggiando, mi avete fatto ricordare quando andavo addirittura in un istituto di suore, all'asilo, all'elementare. E sparava le suore. E giocava, no, almeno. Ci provava. Giocavamo con pollice, simulando la pistola, e appunto mi ricordavo che... Ma facevate orfanelli contro suore oppure... No, non orfanelli. No, che adesso. A scuola a tempo pieno e ci si divertiva così, aspettando i genitori che ti venivano... E la suora che parte aveva in questa? Prego? La suora che parte aveva? La suora poteva far Belfagor ai tempi. Comunque, e niente, così mi avete fatto ricordare questa cosa qua, che oltre allo sparo che ho sentito, e sinceramente anche noi ci dilettavamo a farlo, c'era anche la simulazione della caduta, no, da cavallo piuttosto che quella terra. Ci riesce adesso guidando a fare tutta la sequenza? Ci provi? Le faccio lo sparo al massimo. No, lo sparo anche, però il rumore del gemito del colpito. Ma sì, no, non era tanto genere, proprio come cadeva, cioè non è che ci si buttava per terra. Lo schianto al suolo. Era proprio tutta la moina, non so come dire, la caduta che... Sì, finché non entrò nell'immaginario nostro la 44 Magnum, che era un'arma devastante, faceva fare 2 metri di salto addietro, ancora la rivolverata, diciamo, veniva attutita, il corpo riusciva a tenere il colpo, quindi ci si accasciava e si aveva un po' di agonia, a meno che non fosse colpito in fronte. Ci si piegava in due a simulare, non so, il colpo nell'addome, che si tentava di stare in piedi e dopo si cadeva. Beh, andiamo al colpo, va, che vedo Intonti fa un gesto con i due pugni chiusi. Allora, il colpo, mi viene in mente la 44 Magnum, appunto, che faceva quel colpo sordo e poi il fischio, no? Sì. Fare così. Beh, c'è un forte effetto, c'è pathos, alla volata, c'è un bel colpo. Complimenti, continua a guidare Diego. Diego va, azzarda ancora un passo nella direzione della sinestesia. Lei, leggo dalla scheda, che riesce anche a imitare il bagliore della canna del fucile al sole. Non so come, ma lo faccia. Tra l'altro credo che sia il segno più sicuro della contaminazione fra il film del samurai e poi il film di Sergio Leone. Come, no? La katana, quando... che viene denudata e colpisce, anche la pistola fa, lascia, sì, ma non bolgio. Solo, è anche il fatto che nel momento in cui viene tirata fuori la katana, il sole la colpisce e quel bagliore viene spesso reso tramite un effetto sonoro che è significativo, no? Che lo faccio perché devo chiudere. Allora, il suono è questo qua. Non si è sentito. Nel silenzio totale della prateria, il sole colpisce la katana o la canna del fucile e questo è il suono. Bellissimo, guardi, veramente questo equivale alla pagina bianca di Mallarmé, equivale al punto zero della scrittura, quindi lei vince 20 cose che rendono la vita infernale di Dominique Nogues, che non so cosa sia, ma una soluzione indolore rapida contro i mali del mondo e chi li provoca. Lei ha la chiave di salvezza e il professor Chiappini ha preparato una meravigliosa compilation di tutti gli spari che sono stati evocati in questa trasmissione, li facciamo sentire tutti assieme e poi la sigla rapirà naturalmente la nostra voce, quella del grande maestro Giuseppe Sansonna, e chissà, forse ci sentiremo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.